Radio 24 Reportage. Evros, porta e muro d'Europa, parte seconda, di Giampaolo Musumeci. Nel nostro viaggio lungo i 150 km di confine, lungo il fiume Evros, tra Grecia e Turchia, vediamo arrivare migranti da ogni parte del mondo, dall'Africa nera, dal Centro America, dall'Est, Nepal, Afghanistan, Pakistan, Iraq e Iran. Tutti entrano da qui, perché è la porta d'accesso più facile e più economica per il momento. Negli ultimi mesi aumenta il numero di siriani, come Johan, 21enne, che è scappato da un villaggio vicino ad Aleppo e spiega che qualsiasi paese in Europa per lui va bene, basta che nessuno lo rimandi indietro. And then which country in Europe? Anything. If any city in Europe don't give me to the government, I'm stay that. Johan dice di aver lasciato la Siria una settimana prima. Studente di economia, racconta come l'esercito di al-Assad sia entrato nell'università per reclutare a forza gli studenti. Così lui ha deciso di scappare. Dopo che vengono arrestati, i migranti trascorrono alcune ore o massimo alcuni giorni nelle caserme di polizia di frontiera, dato che i tre principali centri di detenzione sono in ristrutturazione. Di norma restavano dalle 3 settimane ai 3 mesi. Poi un foglio di via scritto in greco, che nessuno riesce a leggere, e chiede loro 30 giorni di tempo per lasciare la Grecia. Tutti vanno ad Atene e lì ad Igumenizza o Patrasso per potersi spostare in Italia o nel nord Europa. Il risultato è che la penisola ellenica è una prigione in cui si entra e da cui a fatica si esce. Se alcuni arrivano dalla Siria, altri hanno fatto un viaggio lunghissimo e difficile, come questi due giovani nepalesi di 25-27 anni. 25. Yeah. Uno dei due, Assis Akota, racconta la loro avventura. Li incontriamo alla stazione dei treni di Alexandropoli, stanno aspettando un treno per Atene. Raccontano di aver viaggiato per 15 giorni e aver attraversato 5 frontiere diverse illegalmente, a volte a piedi. Chiediamo loro perché hanno lasciato il loro paese. Non c'è lavoro, abbiamo bisogno di denaro, racconta Assis. In Nepal facevamo i cuochi, ma la paga era troppo bassa e così siamo partiti. Non sono sposati, due ragazzi, non hanno lasciato nessuno in patria, poi confidano perché hanno scelto la Grecia. Coming time some problem, but Greece some easy. So I choose Greece. Perché è facile entrare legalmente, più di qualsiasi altro paese europeo, confidano. La relativa facilità con cui si entra in Grecia non sembra incidere più di tanto sulle tariffe dei trafficanti, dai 500 agli 800 euro in media per passare l'Evros, ma se si arriva da lontano la cifra è molto più alta. $6,000 consegnati alla gente, ci racconta questo giovane pakistano che incontriamo nella zona di Orestiada. E l'agente stesso era pakistano. I am coming through agent, you know agent? Okay, a Turkish. No, Pakistani. I pay $6,000. How much? $6,000. From Pakistan? Yeah. Le connessioni poi con i colleghi turchi permettono il passaggio di denaro e la conclusione del contratto tra trafficanti e migrante. Il pagamento di norma è anticipato e avviene nel paese di partenza del lungo viaggio. Ultimamente, poi, la crisi che attanaglia la penisola ellenica ha portato alla nascita di un nuovo fenomeno, ci confida un investigatore al commissariato dell'Alexandropoli. Tra i trafficanti di uomini ora ci sono anche i greci. Agricoltori che hanno i terreni a ridosso del fiume Evros o che hanno magari piccole barche, che parlano turco, data la vicinanza con il vicino paese, si mettono in contatto con i trafficanti turchi e gestiscono il passaggio degli irregolari. 500 euro persona. Ogni passaggio in media porta dai 5 ai 10 migranti. In tempi di crisi c'è di che fregarsi le mani. A fronte di questo denaro sborsato, a volte il viaggio è duro, durissimo per i migranti. Un giovane che viene dal Bangladesh racconta come di un suo compagno di viaggio sia precipitato in un burrone mentre valicavano le montagne tra Iran e Turchia. Sono morte 2 persone durante il viaggio, non li abbiamo sepolti, abbiamo solo messo delle pietre sui loro corpi. Chiediamo in quale paese europeo voglia andare. And in which country do you want to go now in Europe? I will try to go to Italy. My cousin. In Italia, ci risponde, perché il cugino è già lì. Gli chiediamo in quale città, ma non ne ha la minima idea. Ora bisogna camminare verso Atene. We'll call him. Ho il suo numero di telefono, dice. Lui ha un suo ristorante, lo chiamerò, gli chiederò di portarmi da lui. He has his own restaurant. I will go there. He was living with his family. Spesso la geografia europea è assai fumosa nelle menti dei migranti. Un ragazzo pakistano che abbiamo incontrato un giorno alla stazione dei treni di Orestiada era convinto di poter passare dalla Grecia all'Italia via terra e che i due paesi confinassero direttamente. Medici Senza Frontiere è presente nella regione di Evros e opera nelle stazioni di polizia di frontiera e nel centro di Poros, dove garantisce assistenza e un check-up medico continuo. Now currently MSF is present in the Poros screening center. We've been there. Paola Fernandez dell'organizzazione conferma che c'è un'alta percentuale di minori tra i migranti che arrivano quotidianamente. Appena arrivano gli immigrati arrestati dalla polizia, lo staff di Medici Senza Frontiere è pronto a visitarli, racconta la Fernandez. Our medical triage. What does it mean? We have a medical team present 24 hours. Il range di età va dai 16 ai 40 anni in media, ma a volte trovi bimbi di 8 mesi o di 2-3 anni, ma che spesso arrivano con almeno la madre o con entrambi i genitori. Minor situations, they can be dealt immediately by our team in Poros. If there are more severe cases. Le condizioni sanitarie in cui arrivano sono quelle di persone che hanno compiuto un lungo viaggio, che hanno camminato a lungo, a volte anche per settimane, a volte sono in ipotermia, sono affamati. Capita, racconta Paola, che non abbiano mangiato per 4 giorni di seguito o che non bevano acqua dal giorno prima del passaggio sull'Evros e spesso sono completamente bagnati. And very hungry because they have not eaten for 2 or 3 days. Yeah, so even also drinking water for one day. L'Eldorado Europa, così agognato, così lontano e così vicino, in quel lembo di terra attorno al fiume Evros. La fortezza Europa, sempre più chiusa e arroccata, vittima della crisi economica, incapace di attuare una politica sull'immigrazione realmente europea e coerente. I muri, le reti, servono a poco. Chiuso una porta, i trafficanti apriranno una finestra. I migranti arriveranno comunque, solo che il viaggio sarà più lungo, pericoloso e costoso. Basta ricordare altri casi del recente passato. Le reti a Ceuta e Melilla, le due enclavi spagnole in territorio marocchino, non fermarono del tutto il flusso migratorio. Gli africani tentavano di scavalcare le reti e il filo spinato, morendo appesi e dilaniati. Oppure si affidavano a trafficanti che varcavano il confine in auto, nascondendosi in loculi ricavati nei cruscotti, arrotolati su se stessi e senza la possibilità di respirare, per lunghissimi minuti. Oppure tentavano di passare via mare a bordo di piccole imbarcazioni. I trafficanti li gettavano in mare ad alcune centinaia di metri da Ceuta, ma molti migranti non sapevano nuotare. La chiusura pressoché totale della rotta a sud, quella di Lampedusa, ne ha riaperte altre di rotte. Quella greca su tutte. Fino a un paio di anni fa si passava dalle piccole isole di fronte alla costa turca come Samos o Mitilini. Poi i pattugliamenti di Frontex chiusero anche quella. Allora adesso si passa via terra, dalla regione di Evros, appunto. Ma il punto è che la domanda di immigrazione è inesauribile e le motivazioni delle migliaia di giovani afghani, pakistani, iracheni sono troppo forti, anche più forti della morte e dell'altissimo rischio che si andrà a correre. E a fronte di questa domanda c'è l'offerta dei trafficanti di uomini. Una rete di professionisti del viaggio e della corruzione, una mafia che fattura a livello mondiale cifre da capogiro, il secondo business più redditizio dopo la droga. La polizia europea è spesso incapace di contrastare questo fenomeno, perché se prendere il pesce piccolo può essere relativamente facile, arrivare ai capi dell'organizzazione, quello è difficile. La polizia di Orestiada ha arrestato in passato decine di trafficanti turchi e pakistani, quando all'inizio anch'essi passavano in territorio greco insieme con i migranti, passando il fiume Evros. Ma per arrivare ai pesci più grossi, a Istanbul per esempio, o nelle città di partenza, in Pakistan, in India, in Bangladesh, quello è impossibile. Manca la necessaria cooperazione internazionale e i trafficanti fanno di questo punto di debolezza delle polizie e delle magistrature internazionali il loro vero punto di forza. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.